Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, caro Oscar, siamo qui alle 8:18 qua, minuti. Eccoci qua, siamo alle 8:18 minuti. Siamo, devo dirvi che Alessandro Milan è in collegamento diretto, ve lo posso garantire in ogni pausa, per sapere se il Milan ha trovato un aereo per Doha. Hai sentito la battuta di Berlusconi? Cosa bisogna fare per battere la Juve? Cambiare l'arbitro. No, ha detto letteralmente cambiare tutti gli arbitri. Ah, se vedi il testuale, perché io da torinista me lo sono riletto bene. Dice bisogna cambiare tutti gli arbitri. Quindi... tutti addirittura. Comunque, certo, voglio dire, vi ha appiedato, tanto per cominciare. Sì. Non sono cervelli in fuga, direbbe Poletti. No, e neanche suo figlio, direi. Suo figlio, adesso guarda poi che ne parliamo. Poi il figlio ne parliamo. Comunque, oggi un santo gesuita, San Pietro Canisio, uno dei primi seguaci di Don Ignazio di Loyola, padre provinciale in Germania per molti anni e dottore della Chiesa. E poi tra gli altri santi dico solo due parole su uno in particolare, San Giacomo di Valenza, perché questo ci ricorda com'è complicata la storia delle fedi monoteiste. Perché questo santo spagnolo, stiamo parlando del XIV secolo, nel 1362 è ad Algeri per il riscatto dei cristiani che erano schiavi dei Mori, ma cosa fa? Invece di far questo va a tentare di convertire gli ebrei in sinagoga, perché questo testimonia che all'epoca c'era un odio accesissimo ancora verso i cosiddetti deicidi, gli ebrei, i giudei, eccetera, i quali a quel punto pensano bene di ammazzarlo su un di pietra. Quindi è uno dei santi vittime degli ebrei, per così dire, il che la dice lunga su quanto fossero le bandiere contrapposte. Come dire, per le cose da ricordare oggi, sono 16 anni dalla chiusura del primo Grande Fratello. A me sembra ieri, e invece sono già passati. Questa è da ricordare. 16 anni. Come sì, perché il costume italiano, capisci? Il costume italiano è cambiato profondamente. E detto tutto questo, invece, nel 1958 il grande De Gaulle diventa il primo presidente della Quinta Repubblica. Mi sembra una cosa più seria da ricordare, ma non sottovalutare. E agli occhi degli italiani, dei nostri ascoltatori, il Grande Fratello conta incommensurabilmente di De Gaulle. Però, caro Oscar, noi parleremo ovviamente di quello che sta succedendo a Berlino, di quello che succede forse da noi. Tra poco avremo il procuratore antiterrorismo e antimafia Franco Roberti. Avremo Marta Ottaviani per parlare di Turchia, Russia, Siria. Però il figlio di Poletti. Beh, questa straordinaria intervista al figlio di Poletti. Poletti che, tra l'altro, l'abbiamo recuperato. Sentiamo bene l'audio di Poletti sui Pistola, che vanno via i Pistola. Quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. Se ne vanno 100.000, ce ne sono 60 milioni qui, sarebbe a dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti Pistola. Permettetemi di contestare questa tesi. Io conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà moltissimo a non averli più tra i piedi. Io non ho ancora capito a chi si riferiva, chi aveva in mente da odiare così tanto che l'Italia non lo vuole più tra i piedi. Vedi, è ancora più incredibile che nel porsi questa domanda nessuno sia in grado di dare una risposta. Cioè, voglio dire, a me se non concesso che il ministro del lavoro possa dire una cosa simile, se lo dice facendo riferimento a qualche cosa anche solo di vagamente comprensibile, non dice vabbè ha sbagliato, vabbè, però. Invece no, ha sbagliato, basta, cioè, però qua. Oggi il figlio gli rende giustizia. Manuel Poletti, 42 anni, direttore di Sette Sere Qui, settimanale della provincia di Ravenna, finanziato coi contributi dell'editoria pubblica per sua stessa missione, anche se dice ce li hanno tagliati molto, pubblicità tabellare, ma dice ma non la fanno perché sono figlio del ministro, anzi non mi ha mai aiutato a essere figlio del ministro. 42 anni, una laurea che prenderò tra poco perché mi manca qualche esame. Non lo so, evidentemente l'inopportunità nel rendere dichiarazioni è un pochino di famiglia, ma lo dico senza... Io un po' ho ridacchiato quando ho letto l'intervista del fatto, ma non per sul fatto, ma perché... non per... mancare di rispetto, e perché mi sono detto: ma se un autore satirico avesse voluto inventare un personaggio ipotetico per aggravare la situazione, non sarebbe riuscito a mettere insieme tutte queste caratteristiche, cioè il figlio di che dice no papà ha ragione, e poi dice ma lei la laurea, no, 42 anni però adesso ci arrivo piano piano, famiglia, sì. E capisci, il giornale che esiste grazie al contributo pubblico, il cotè di sinistra, ecco, non ci sarebbe riuscito, sì. Cioè la realtà supera la fantasia. Però dice, è vero, quelli che vanno via non sono tutti cervelli, questo è il figlio del ministro Poletti. Vabbè, ma insomma, diciamo che questa vicenda da qualche giorno ci state scrivendo, una gaffa, ecco, è stata, derubrichiamola così, a gaffa. Ho capito, ma ne aveva già resa una 72 ore prima dicendo bisogna andare a votare per evitare il referendum sulle materie che riguardano il lavoro di cui è ministro, capisci? Cioè, secondo me qualche cosa nell'equilibrio di Poletti, persona molto equilibrata, si è un po' rotto in questo periodo, bisognerebbe capire che cos'è. Del resto però, se le vicende italiane, se vai a vedere, scusate, io faccio questa domanda, cari amici milanesi, cari italiani, allora Sala si è sospeso dall'autosospensione, benissimo, il sindaco di Milano torna a lavorare, ma la domanda è cosa ha saputo dai magistrati che nessun altro indagato, qualunque persona italiana normale indagata, non potrebbe andare dal magistrato, il magistrato non ci penserebbe proprio a dargli elementi di rassicurazione. Cosa hanno fatto? Lui un dice, incidente probatorio, no, privato non previsto dal codice? Dice cosa hanno scoperto i suoi legali che non c'è altro rispetto al a quel questo non c'è altro questo, come hanno fatto a scoprire se qualunque cosa abbiano tra virgolette scoperto dai magistrati, i magistrati non riserverebbero nessun tipo di incidente probatorio privato, chiamiamolo così, a qualunque indagato, Giannino, Milan, a chiunque altro. Allora, se non è questo, fumo era la sospensione e fumo, vabbè, la derubrichiamo a colore politico, perché io mi voglio augurare davvero che i signori magistrati non abbiano aperto una camera privata, ecco, perché altrimenti veramente abbiamo un codice che fa ridere. Detto non questo, non credo. Pensa a Roma, poi a Roma, la bocciatura del bilancio. Sì, sì, è tutto va un po' a rotoli. Però Oscar, magari ne parliamo nel corso della puntata. Sì, sì. Intanto dobbiamo dare il buongiorno, lo ringraziamo, sono momenti veramente difficili. Lo ringraziamo il procuratore antimafia, il procuratore antiterrorismo nazionale Franco Roberti. Buongiorno procuratore, buongiorno. Grazie di essere con noi. Senta, perché ovviamente tutti guardiamo a Berlino, ma tutti i giornali oggi raccontano di città che si blindano sempre di più, anche in Italia, di nuovi dissuasori per proteggere i mercati di Natale. Ma è davvero questa la strada migliore, procuratore? Guardi, se ci sia necessità di un controllo tendenzialmente stringente e capillare del territorio, non c'è dubbio. Ma è quello che le nostre forze di polizia fanno. Quindi diciamo, adesso non capisco cosa significa blindare i mercatini, ma insomma, voglio dire che ci sia necessità e c'è, diciamo, la polizia sul territorio che sorveglia, che previene questo fatto. Sa che non vale solo per il terrorismo, naturalmente, vale per ogni forma di... No, ma questo è chiaro. Ha visto che c'è stato tutto il dibattito in Germania, hanno preso una persona richiedente asilo, poi si è scoperto che non c'entrava nulla, però... è nato tutto il dibattito, ecco che cosa porta secondo alcuni l'accoglienza eccetera, come si fa a controllare nelle migliaia di persone che sono qui, la maggior parte delle quali Guarda, sono intanto qui. Bisogna selezionare attentamente, ci sono i criteri per farlo, le persone che entrano nel nostro territorio, poi naturalmente l'accoglienza e l'integrazione sono un altro discorso, io sono favorevole, diciamo, a un'accoglienza organizzata, coordinata, condivisa con gli altri paesi dell'Unione Europea, e quindi diciamo qui apriamo un tema molto ampio, ma sul quale insomma io sono, dico subito soltanto che sono contrario alla erezione di muri e di barriere che peraltro non servono a niente, secondo me. Procuratore, ma quando le modalità di compimento di questi attentati da Nizza in poi sembra che ci sia una ricerca, magari anche di fronte alle strategie sia preventive che repressive, che di controllo e di coordinamento dei servizi, delle forze di polizia e dei magistrati. Però insomma, quando si ricorre a strumenti per compiere attentati così singolari, modalità così singolari e colpendo luoghi pubblici senza preavviso, che non sono quelli tra virgolette protetti, insomma, perché sospettabili di essere oggetti, come davvero si può immaginare di fare prevenzione da una parte? Dica. Una prevenzione che garantisca al 100% dal attentati non c'è, inutile diciamo, dire altre cose, non c'è. È importante però fare attività di prevenzione costante, continua, soprattutto attraverso il coordinamento tra le forze di servizi di intelligence delle forze di polizia. Noi italiani credo che abbiamo messo in campo già da molto tempo un'attività di prevenzione efficace, e c'è anche un coordinamento con la magistratura, ovviamente, per quando emergono di reato, per cui bisogna penalmente procedere. Quindi il nostro sistema io credo che funziona, e lo ha dimostrato finora, e credo che diciamo, sia tra i migliori a livello europeo e anche occidentale in generale. Per il Natale possiamo, come dire, pensare che c'è stato un allerta aumentato, procuratore, oppure no? Guardi, noi in Italia, cioè, non abbiamo mai ridotto il nostro stato di allerta. Questo io lo posso assicurare. Quindi diciamo, l'allerta c'è sempre ed è sempre al massimo. Quindi questo, ripeto, non ci rende immuni dal rischio in assoluto, però insomma ci consente di dire con serenità che abbiamo messo in campo tutte le forze e tutti gli strumenti necessari. Senta, rispetto a quando vi fu conferita il coordinamento nazionale, stiamo parlando all'inizio del 2015, e voi svolgeste fin dall'inizio un ruolo concreto, vista l'esperienza di coordinamento nazionale antimafia, delle norme che andavano anche adeguate sia nel codice penale che in quello di procedura, che nei poteri di prevenzione, cosa che poi è stata anche fatta, cioè ci sono delle fattispecie di reato più precise su tutto il fenomeno dei foreign fighters, eccetera, eccetera, che prima non c'erano. Le chiedo, state accumulando qualche altro nuovo elemento che ci fa pensare che abbiamo bisogno anche di norme o procedure autorizzate di coordinamento a livello nazionale diverso in questo ultimo anno e mezzo? Guardi, il fenomeno del terrorismo internazionale è un fenomeno in continua evoluzione e trasformazione, dipende anche dalla realtà geopolitica dei territori che sono, diciamo, occupati da almeno in parte dallo Stato Islamico. Quindi, per esempio, le sorti dello Stato Islamico nel quadrante di guerra e sicurezza che in qualche modo influenzano anche lo sviluppo e l'evoluzione del terrorismo. Noi diciamo adeguiamo, come diciamo, altri paesi d'Europa, la nostra legislazione alla evoluzione del fenomeno. Sono state, come lei ricordava, introdotte nuove norme nel corso anche del 2016, nuove norme per contrastare il terrorismo, anche nuove ipotesi penali. Se ne possono pensare ancora in relazione appunto allo sviluppo del fenomeno, però diciamo che abbiamo già uno strumentario normativo e organizzativo efficace. Che sta funzionando. Il problema nostro sa qual è? Quello di rendere il più possibile armonici gli interventi, anche le interpretazioni giurisprudenziali delle norme. Sì, un coordinamento che lei già questi microfoni aveva richiesto. Sì, in passato. Ma questo si sta facendo, c'è un'iniziativa credo importante del Procuratore Generale della Corte di Cassazione che noi sosteniamo e diciamo e in qualche modo diciamo, aiutiamo per arrivare attraverso diciamo, un movimento di classi giurisprudenziali applicative uniformi a una migliore armonizzazione proprio del sistema di applicazione delle norme delle penali. Procuratore Roberti, c'è un numero preciso, non so se ce lo può dire ovviamente, dei cosiddetti foreign fighters, di persone che sono andate a combattere nei teatri in cui c'è l'ISIS e che sono presenti in Italia? Guardi, è noto che secondo stime abbastanza attendibile dall'Europa sono partiti negli ultimi anni circa 30.000 foreign fighters. Quelli che sono rientrati sono intorno ai 1.500-1.600. Di questi, gli italiani, quelli che erano partiti dall'Italia e che sono rientrati in Italia, sono pochissimi. Però, diciamo, sono soggetti che vanno ovviamente monitorati con molta attenzione. Ma non possono poi essere, non c'è il reato di terrorismo internazionale? Possono essere arrestati? C'è il reato di organizzazione di viaggi, diciamo, con finalità di terrorismo. Secondo me, questi viaggi dovrebbero rientrare anche i viaggi di ritorno. Ecco. Se si ritiene che non vi possano rientrare, allora sarà fatta sicuramente una norma che sanzioni anche il viaggio di ritorno con finalità di terrorismo. Quello che è importante dire è che esiste una norma generale, che è l'articolo 270 bis, associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, che è sicuramente, nella stragrande maggioranza dei casi, contestabile a questi soggetti che rientrano con finalità di terrorismo. Perché essendo stare a combattere già nel quadro diciamo siriano, evidentemente sono già affiliati allo Stato Islamico e quindi rientrando possono essere oggetto di contestazione di questo reato associativo. E adesso non dimentichiamo che appena pochi giorni fa è stato condannato un italiano. E infatti. Di cui non si sa nulla, però, cioè le tracce sono sparite in Siria. Si ritiene che sia ancora in Siria, non è ancora rientrato. Certamente non è rientrato. Certo. Ma è stata condannata per l'associazione con Fidel Castro. Come no? Nove anni. Nove anni, il suo marito anche, altri 10 anni. Procuratore, noi la ringraziamo sperando ovviamente di passare, come dire, un Natale tutti tranquillo. Anche grazie a voi che insomma state lì, anche lavorate in silenzio, ma lavorate. Grazie al procuratore Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia. Certo, in piccolo si può dire che ieri i tedeschi hanno fatto una figura un po'. Ragazzi, l'efficienza tedesca un po', ma per carità. No, poi tra l'altro ieri Udo Gumpel raccontava giustamente, perché erano le prime immagini, no? Di questo tedesco che ha inseguito. Però non ha detto alla polizia, boh, l'ho perso di vista per un po', mi è sembrato che poi fosse l'altro. Poi come vanno a beccarli adesso? Ecco, non lo so. Adesso è tutto molto più complicato. Naturalmente. Io non voglio dire, bisogna sperare che la matrice sia quella immaginata sin dall'inizio, perché è sbagliato anche questo. Se poi non lo fosse, mamma mia, non lo so. Eh no, infatti, c'è anche da dire, tutto questo dibattito sull'accoglienza, mandiamoli via, è tutto nato perché si pensava che fosse questo, no, Pakistano. Certo, le analogie con Nizza, però, certo. Cari ascoltatori, non lo dico per tentare di fare l'intellettualino dubbioso, dico che però su queste storie, vicende tragiche, bisogna andare coi piedi di piombo, tutto lì. Questo sì. In ogni caso, dei teschi, i numeri per contattarci sono i soliti, 800240024. Che dire, andiamo un attimo in pubblicità, poi parleremo anche della Turchia, della Russia, se volete chiamarci anche su Poletti, se volete chiamarci sul terrorismo. Ci volessi chiamare il figlio di Poletti. Se volete chiedere a Oscar Giannino se hai 20 miliardi per Montepaschi. Come no, mi scappano giusto insieme ai 2 eurini di cui Meazza parla tutte le mattine con Alessandro. Vabbè, ma sai, 2 eurini si possono anche poi sacrificare. No, ma lui inizia a chiederti, ma sono sempre gli stessi o sì, ogni certo, giorno si aggiungono? Giro, no? Io faccio 2 eurini, ma valgono per tutti, li metto di qua, di là, copro, su, avanti, indietro. E vabbè, dai, chiamateci su quello che volete, siamo qua tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Vedi, caro Oscar, per esempio ci scrive Pino, io veramente non capisco, sono pienamente d'accordo con Poletti, e questo va bene, è un'opinione, i veri cervelli rimangono in Italia, all'estero molti fanno i camerieri. Questo tono sprezzante, che tono sprezzante ci non sarebbe così, nei confronti dei camerieri? No, ma poi io ho capito, perché se uno è cameriere, come dice Poletti, dunque è meglio che se ne stia fuori dai piedi dall'Italia, perché è un cameriere. Attualmente no. Ma dai, a parte molti si fanno i camerieri per studiare all'estero e pagarsi università che costano di più perché danno titoli più qualificati, eccetera. Eccetera. Comunque io tutte queste cose di nazionalismo non le sopporto. Guarda che, purtroppo in questi anni, Alessandro, mi prendo la responsabilità di espormi agli insulti, sono molto aumentate nel dibattito pubblico, si vede nei messaggi, nel tono degli ascoltatori, perché c'è chi ha coltivato con criminale e colposa volontà politica la risposta nazionalista, che quando le cose vanno male in economia è una risposta ricorrente nei paesi e che ha portato nel Novecento alle guerre mondiali, a centinaia di milioni di morti, perché l'idea è chi va fuori è un traditore, chi non compra i prodotti italiani è un traditore. Ecco, questa cosa qua, secondo me, purtroppo è molto preoccupante. Ma tra l'altro io dico una cosa, che la prima parte del discorso di Poletti sia corretta, cioè non è che vanno all'estero tutti i migliori e qui stanno i pistola, come lo chiamano, questo è indiscutibile, cioè, non è che è quello che è aggiunto dopo, né tra cioè, quelli che vanno né tra quelli che restano, è quello che è aggiunto dopo. Ci sono persone che è meglio che l'Italia abbia perso e se ne stiano fuori dai piedi. Chi sarebbero i camerieri secondo Pino? Ma non si o... capisce, non, si capisce. Non si capisce. La verità vera è che gli hai scottato dannatamente che tra i giovani abbiano perso il referendum, punto. Questa è la faccenda vera. Siccome hanno perso il referendum, ecco. I dati del Jobs Act dicono che per corti anagrafiche sono gli over 50 che ne hanno beneficiato, i giovani no, quindi i giovani hanno anche votato ragionando sugli effetti di questo governo. Allora, per di più, sull'idea che poi il ministro gli venga detto i giovani se ne vanno, ha perso il controllo. Questa è la mia interpretazione, perché la politica a volte non ammette le sconfitte nelle sue ragioni vere. Comunque ci chiama Gianni da Modena, vediamo, su questo tema mi dicono. Gianni, buongiorno. Buongiorno Giannino. Eccoci. Io comunque la no, penso intanto la vorrei rinvitarla a mettersi in politica. No, non ci penso. Poi ha detto di no, Gianni. Ha detto di no. Va bene. Ne prendiamo atto. Io il discorso di politica non lo vedo proprio tutto così sbagliato. Perché? Cioè, io credo che è una cosa che detto da un politico sicuramente non è il massimo. Però il fatto che, guardi che molta gente rimane anche in Italia, anche perché hanno delle situazioni finanziarie o situazioni anche familiari che non possono permettersi. Ma per carità, ma forse Gianni, lei si riferisce alla prima parte del discorso di Poletti, che è giusto. Quando Poletti dice: ma tanti che se ne sono andati, facciano il piacere, meglio che stiano fuori dai piedi. Sì. Ma lei si rende conto? Questo ministro con chi ce l'ha? Di chi sta parlando? No, d'accordo, non dovrei Ma è quella la parte che ha creato polemica, non il fatto che effettivamente non tutti i geni vanno all'estero. Né e tutti i geni pistola... vanno né tutti i geni restano, esatto. Per essere chiari, perché non si può discriminare così. Ma cosa ha in testa il ministro quando ci dice, e soprattutto con Livore, c'è una parte di loro che vedo che stiano lì, stiano fuori dai piedi? Non lo so. Si capisce. Comunque Gianni dice, non dice cose errate. Va bene, grazie Gianni. Stefano dalla provincia di Roma. Buongiorno a voi e radioascoltatori. Ecco, volevo dire che mi è dispiaciuto molto quello che è successo a Alessandro Milan. Grazie. E poi volevo, per cortesia, se poteste spiegarci in termini, diciamo, banali, normali, per noi normali cittadini, qual è la motivazione reale per la bocciatura del bilancio del Comune di Roma. E un'altra cosa vi chiedo, per cortesia, sapere perché sembrerebbe che noi dovremmo pagare il salvaggio di Monte Paschi Siena, insomma 20 miliardi di euro. Domande per Oscar. Queste. Io dico solo in premessa che chi ha bocciato questo bilancio è l'OREF, che è un organismo indipendente che viene estratto a sorte tra i revisori e viene stato assegnato. Non sono gente di Roma, è un organismo indipendente, è stato estratto a sorte e controlla il bilancio da febbraio, peraltro, di Roma. Perché qualcuno dice: ma il vecchio debito, l'OREF non è. L'OREF lavora lì da febbraio di quest'anno, quindi da solo 8 mesi, non parla per il passato. Però Oscar, perché l'ha bocciato? Stefano, trova naturalmente sul Messaggero un mio lungo pezzo in cui spiego, ma in sostanza la questione è questa. Sono 4 questioni di fondo, una più importante dell'altra, in queste 46 pagine del rapporto dell'OREF. Allora, il Comune di Roma, e questo la Giunta lo sa, come lo sanno tutti coloro che sono candidati a guidare Roma, è alle prese con un disastro ereditato gigantesco. Perché? Per 4 ragioni. Primo, c'è un patto molto impegnativo da rispettare per il rientro della finanza pubblica, contrattato quando Ignazio Marino, che anche lui non riuscì a fare la sua prima legge di bilancio alla fine del 2013, ottenne un decreto salva Roma, lì si contrassero degli impegni di riduzione del deficit e della spesa a Roma, e sono impegni per centinaia di milioni di spesa corrente. E dice l'osservatore indipendente, il revisore dei conti, qui non sono rispettati. Secondo, sono emersi altri debiti fuori bilancio per centinaia e centinaia di milioni, e non c'è il modo di, nel progetto di documento pluriennale della Giunta, il modo per dare una risposta. Terzo, la Giunta di Roma eredita una macchina amministrativa incapace di fare entrate proprie in percentuale minimamente tollerabili, per così dire. Per esempio, Milano fa 4 volte incassi propri da canoni, tariffe e imposte rispetto a Roma, 4 volte, malgrado abbia meno della metà degli abitanti. E anche su questo l'OREF dice: se non ci mettiamo in condizione di essere più efficienti nelle riscossioni, più trasparenti, l'equilibrio del bilancio non si fa. Quarta cosa, e ho finito, relativo alla holding in cui ci sono tutte le maggiori partecipate scassate di Roma, ATAC e AMA, lì c'è uno squilibrio potenziale se non si cedono e razionalizzano, con un disegno che manca nella proposta di Conte di Roma, c'è uno squilibrio potenziale per un altro miliardo, ecco, motivo per il quale se ne andò in ragioneria generale. Sommate tutte queste 4 cose, sono potenziali squilibri fino a 2 miliardi con un bilancio che ha entrate per 5, quindi capisce che adesso, entro fine febbraio, termine di legge, Roma, la Giunta, il sindaco devono capire che devono mettersi sotto, perché altrimenti si rischia poi un commissariamento, ecco. E soprattutto non c'è un governo che faccia il decreto come quello che salvò Marino all'inizio, perché il PD, che tanto polemizza, si ricordi che il primo bilancio di Marino si fece solo grazie a un decreto del governo. C'è la questione Monte Paschi, ma tu, Oscar, l'hai già detto, cioè perché dare soldi, ma tu hai già detto forse per te non li daresti anche. No, ma però qui ci sono anni e anni, il Monte Paschi uguale PD per anni, ma poi da 4 anni invece che intervenire come allora era possibile fare, azionare gli azionisti, risanare la banca e rivenderla attraverso un intervento pubblico, si poteva fare allora, non si può fare più adesso. In questi anni, altri 2 anni, abbiamo perso un mucchio di tempo, fino a che i privati, gli azionisti e gli obbligazionisti hanno perso ogni fiducia in quella banca. Avete visto quanti miliardi di depositi, anche se ne sono andati nelle ultime settimane, e adesso si è costretti a mettere mano al portafoglio pubblico, nella grande esultanza di molti media che invece dovrebbero indicare quante responsabilità politiche dei regolatori ci sono in questa vicenda. Tra l'altro, tu prima, Oscar, hai parlato di guerra mondiale. Sai che oggi Adriano Sofri paragona sul Foglio l'uccisione che c'è stata dell'ambasciatore ad Ankara, Carlo, sì. all'uccisione di Francesco Ferdinando, no? 1914, di Gabriel Princip, insomma l'assassino di Sarajevo, che dire, via di fatto la goccia che fece traboccare il vaso e portò alla prima guerra mondiale. Ecco, non so se gli scenari sono simili. Comunque vogliamo parlarne con Marta Ottaviani. Ciao Marta, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come va il tuo ultimo libro, ovviamente, il Race, come Erdogan ha cambiato la Turchia? Spero bene. Ma allora, sta andando molto bene, quasi fin troppo, visto che non si trova, e soprattutto, insomma, sarà anche simpatico sapere come l'abbiano presa dalle parti di Ankara questo successo. Ecco, sì, più vasto il successo, più i tuoi amici Marta si preoccupano se torni lì. No, però comunque, Marta Ottaviani, che insomma è una voce anche di Radio 24 da anni, conosce molto bene la Turchia, allora, intanto, ovviamente Ankara cosa dice? Questo poliziotto che poi è stato freddato, che prima ha ucciso l'ambasciatore, è un simpatizzante di Gulen, cioè l'oppositore di Erdogan, e la vicenda è chiusa, la chiudiamo così, no? Marta, la chiudiamo così. Ma diciamo che ad Ankara dar la colpa a Gulen serve per due motivi. Il primo è la ricaduta interna, quindi continuare a mantenere, diciamo, alta la barra del terrore e dare a Erdogan, come dire, il permesso per operare nuove purghe che non si sono mai fermate dal golpe dello scorso luglio. Ma gli serve anche in chiave russa, insomma, far vedere che ha tutto il territorio permeato dal Nusra e da altri gruppi jihadisti, quando sostanzialmente invece ha promesso a Putin di aver chiuso più o meno, no, con queste derive islamiche, insomma, diciamo che non gli fa esattamente gioco. Peraltro è molto interessante perché l'attentato arriva a pochi giorni da quando sia Erdogan sia soprattutto il primo ministro Yildirim, su ordine di Erdogan ovviamente, si era lamentato con la Russia perché aveva ripreso i rapporti economici commerciali in maniera troppo blanda rispetto invece alla Turchia, che subito dopo la pace fatta tra i due paesi nello scorso 9 agosto aveva dato un nuovo impulso molto vigoroso. Lo stesso Erdogan aveva addirittura fatto approvare legge a tempo di record per iniziare subito i lavori del Turkish Stream, il gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Europa. Quindi insomma, diciamo che sicuramente Erdogan adesso, l'alleanza con la Russia non si rompe, ma Erdogan è in una posizione di schietta debolezza. Però c'è chi ha scritto che l'attentatore, su cui poi i giornali qua si soffermano, ma magro con la camicia bianca, c'è chi ha pensato alla stilizzazione, non lo so, a me sembrano tutti particolari secondari, però soprattutto c'è chi ha scritto, Marta, ti chiedo la tua opinione, in realtà l'attentatore e la sua famiglia sembrano provenire più da frange della KP, cioè del movimento politico di Erdogan, che non sopportano la vicinanza con Putin, perché ritengono che sia un tradimento della mission islamista in chiave di supremazia e di egemonia territoriale turca. Chi ha letto così la storia di questo attentatore sbaglia o no? Ma io non sono assolutamente in disaccordo, ho scritto proprio un'analisi per il sito Formiche nella quale spiegavo che bisogna stare molto attenti a pensare che questo attentatore faccia parte più dell'organizzazione di Gulen piuttosto che di Al-Nusra. In questo momento in Turchia c'è tutta una galassia dell'elettorato proprio dell'AKP che non è per niente contenta del riavvicinamento con la Russia. Basti pensare che proprio nei giorni scorsi in 5.000 si sono riversati spontaneamente sul confine siriano, inneggiando all'impero ottomano e chiamando Putin assassino macellaio di Aleppo. Quindi insomma veramente bisogna prestare molta attenzione. Tra l'altro l'assassino viene dalla zona di Manisa, che è una zona notoriamente permeata dalla Naqshbandi, che è la confraternita islamica da cui vengono Erdogan e anche il suo papà politico Erbakan. Quindi no, tra l'altro c'è anche in tutto questo, l'ho vista sul Corriere della Sera, un bel pezzo che racconta anche la plasticità di questi momenti, la drammaticità di tutto quello che abbiamo visto davanti alle telecamere, tra l'altro in una galleria d'arte, per cui sembra un film, questa persona vestita come sarebbe vestito James Bond in un film, no? In nero, cravatta, stona proprio anche e stride questo contrasto tra le opere d'arte, la luce molto e questa persona che sembra quasi un quadro nel quadro. Purtroppo un quadro drammatico. Considerate che l'assassino era stato alla galleria d'arte tre giorni prima dell'attentato, si è scoperto. Ma come ha fatto a entrare senza passare a metal detector, facendo vedere un tesserino? Fuori il tesserino della polizia, ma questo vi fa capire come quello che viene decantato come il secondo esercito della NATO, grande potenza militare, eccetera, dal punto di vista ormai della sicurezza e del controllo del territorio, sia un paese completamente allo sbando, gestito da dilettanti allo sbaraglio. Beh, ne hanno anche fatti fuori migliaia, destituiti e carcerati migliaia e migliaia dei migliori professionisti che avevano nella sicurezza. Hai assolutamente ragione, proprio per questo che la Turchia paga il prezzo di questo. E poi non ci dimentichiamo che Turchia e Israele non si sono parlate per 5 anni sostanzialmente, con tutto quello che ne deriva a livello di scambi di intelligence. Secondo me, quindi, Marta, non so se sei d'accordo, però il tema è questo: Putin, perché poi io quello che temo sempre è il Putin che si deve in qualche modo convincere, convincere, perché è un Putin che se ne sta bello lì tranquillo, accetta le spiegazioni di Comodo, non ci crede nessuno. Sì. Allora, che cosa succederà? Cioè, Putin si può davvero convincere dalle spiegazioni di Erdogan? Guarda, è stato, come dire, è un oppositore che ci è sfuggito, ha compiuto questa cosa, è stata... Oppure Putin dirà, amici miei, qui adesso sono io che detto i tempi della eventuale rappresaglia. Ma io credo che Putin, insomma, io vedere Putin che si fa convincere da qualcuno, onestamente la vedo improbabile. In realtà sarebbe stato molto interessante essere una mosca ieri, appunto, a Mosca, ma sentire cosa Lavrov abbia detto a Çavuşoğlu, quindi il ministro degli esteri turco, il ministro degli esteri turco. Io in realtà credo che a Putin questa cosa in qualche modo faccia gioco, perché può imporre ancora più condizioni alla Turchia, che se prima era una testa di legno della Russia di lusso, adesso è diventata proprio una marionetta. Il problema è proprio questo: la Turchia, che pure è un paese dalla posizione strategica importante, tutto quello che si vuole, non è l'attore principale in tutta questa questione. Sarà molto interessante anche vedere come l'amministrazione Trump vorrà muoversi in Siria. Fino a questo momento sta mandando avanti la Russia, vedremo poi come deciderà di operare Trump e anche come si porrà nei confronti dell'alleato turco. Però se si pensa che solo a novembre del 2015 i caccia turchi abbattevano i caccia russi, veramente il cambio è micidiale. E Erdogan adesso, al di là della recita che fa di fronte al suo paese sulla scena internazionale e nell'area geopolitica dell'area, è ridotto a una cosa ridicola. Anche se io ripeto, Marta, attenzione a quello che dici, perché io voglio vedere come fai a tornare in Turchia. Però sono un po' preoccupato. No, ma infatti, intanto Marta ti ringraziamo per essere stata con noi. Marta Ottaviani, dobbiamo chiudere. Buona giornata a voi. Grazie, ciao. Ovviamente Domenico da Bari, così concludiamo con un ascoltatore. Che ci vuole dire? Sì, buongiorno, ti abbraccio Alessandro, ti abbraccio. Grazie. Forte, e comunque insieme siete il numero uno. Detto ciò, volevo dire questo: io volevo un po' lamentarmi dell'accanimento terapeutico del TG1 sul caso Raggi. Nel senso che loro, tra l'altro, da qualche giorno sono andati all'anagrafe di Roma e hanno ribattezzato Marra, il braccio destro di nome, di cognome fa Della Raggi, cioè non lo chiamano più per nome. Però bisogna anche dire, ad onor di verità, e penso che su questo mi darete ragione, che nel 2003, cioè i fatti che riguardano Marra riguardano il 2013, quando la Raggi era una perfetta sconosciuta. Cioè nessuno evidenzia questa cosa. Vabbè, l'accusa però è quella di dire, pur sapendo che probabilmente era compromesso in qualche modo, lo ha difeso strenuamente. Questa è l'accusa. Certo, poi i fatti risalgono. E comunque, Domenico, che la politica veda i difetti solo in campo altrui, non lo scopriamo purtroppo amaramente oggi. Ecco, per così l'abbiamo dire. Detto tante volte. L'informazione, questo però, sai, servizio pubblico, partiti, governo, non dimenticarlo. Noi no, invece, mi dispiace. Ma lo dico. La nostra Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli sono in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia, e noi, Oscar, ci troviamo domani. Come contribuenti, sempre pronti a pagare, certo. Cioè, se non c'è dubbio. Quindi 20 miliardi li dai. 20 miliardi li daremo, e poi chissà qualcos'altro. E poi euro anche per il giornalino, naturalmente, di Poletti Junior. Perché no? Va bene. Dai, a domani.